vuoi. Runtime Radio, la talk radio geek, vi dà il benvenuto. Buongiorno. Che vuol dire che il Covid è nottambulo? La nostra mafia che ormai non ha più quella sensibilità. E guai a chi mi vuole impedire di utilizzare la parola ricchione. Posso mentre parlo con una signora abbassarmi la mascherina? No? Se non sta un metro e mezzo no. Dell'autoritarismo da regime sanitario e mediatico smacchiato con rosso sangue dei nostri diritti naturali e costituzionali. Che cos'è il mandato zero? È un mandato, il primo, che non si conta nella regola dei due mandati. Non ce n'è Covid, non c'è niente. Andata la fascia, pezzo di merda, pezzo di merda, mo te sputo che fai. Buongiorno. Buongiorno un cazzo. Runtime Radio. Ne fa un'altra. E buongiorno un cazzo a tutti quanti, bentornati a questo meraviglioso programma con il quale durante un giorno della settimana vi diamo appunto insomma il buongiorno, il benvenuti a questa nuova giornata di una qualsiasi giorno della settimana, e nello specifico quest'anno sarà per ora di martedì, perché poi sapete che insomma Runtime si sta svegliando lentamente, quest'anno molto più lentamente degli altri anni, però si sta svegliando, e quindi poi quando troveremo le varie collocazioni a seconda di quelli che sono anche gli impegni lavorativi, gli impegni personali, insomma poi dopo costruiremo un palinsesto sempre più stabile. Per ora stiamo parlando ovviamente del martedì alle ore 7 come al solito in quella che è ovviamente runtimeradio.it, anche se come è stato giustamente ribadito nella versione preliminare di OGM di ieri sera, da lunedì tutto potrebbe cambiare, no? Tutto potrebbe essere diverso rispetto a come lo conosciamo, rispetto a quello che ci aspettiamo, e quindi chissà cosa succederà a Runtime Radio, se verrà qualcuno a romperci i zebedei, a fare in modo che tutto questo non esista più o che debba esistere in condizioni diverse. Certo, devo dire, in questa fantasiosa nostra ricostruzione di quello che potrebbe accadere, insomma diciamo che noi ci giochiamo sopra, anche se in effetti io comunque un minimo mi aspetto, insomma diciamo magari delle regolamentazioni, sapete durante i governi di centrodestra sono sempre i momenti in cui sono uscite poi quelle piccole leggi che tu dovevi attenerti a determinate regole, che poi bisogna vedere quante gente ha poi veramente ovviato a tutto questo. Di certo noi no, questo è abbastanza chiaro e abbastanza evidente. Per il resto in questo periodo abbastanza ampio nel quale ovviamente non ci siamo sentiti, è successo un po' di tutto, no? Come sapete muoiono regine, tra l'altro, cioè voglio dire, quanti soldi spende il Regno Unito per far contenta ovviamente la famiglia reale e farli vivere abbastanza bene, quanto può essere simpatico Re Carlo che è appena arrivato, già ha fatto macelli, quanto ci frega del fatto che i cagnolini da regina erano presenti al suo funerale, e quanti soldi appunto vengono spesi, però poi tutto il resto viene ovviamente arricchito da quello che è il contorno, quello che è la realtà, forse le cose un po' più importanti, tipo che ne so, c'è ancora una guerra in Ucraina, gli americani non vedono l'ora di far scoppiare la terza guerra mondiale contro la Cina e via dicendo, insomma tutte quelle belle cose che, con le quali ci siamo lasciati e che fondamentalmente non sono cambiate, perché questo mondo alla fine vive in un equilibrio sempre precario, nel quale ovviamente bisogna stare sempre allerta, sempre pronti, così come succedeva negli anni Ottanta, perché è il nostro modo di vivere, no? È il modo di vivere nel quale ci hanno abituato e vogliono che sia, ovviamente, quelli che in qualche maniera contano. Ma mentre ovviamente il computer mi ricorda che è iniziato Buongiorno un cazzo, così con una notifica, e mentre io non so ovviamente se sta funzionando tutto come dovrebbe, perché se non funziona, se si scollega ovviamente la diretta, sappiate che il problema non è né il mixer né altro, ma evidentemente è il computer che per qualche ragione non gestisce più bene gli USB, quindi troveremo poi quella soluzione. Però se non altro l'aver identificato qual è il problema è già qualcosa, perché abbiamo fatto la diretta di Runtime by Night ed è andato tutto assolutamente bene, e quindi vuol dire che il problema non è questo, insomma, ok? Adesso ci sentiamo il brano della settimana e poi iniziamo con questa puntata che, insomma, sarà un po' più easy, no? Rispetto a, cioè, iniziamo con calma, diciamo così, ok? Questo è un brano consigliato da Runtime Radio. Ciao, noi siamo le Shiz. Siamo qui per presentarvi il nostro nuovo singolo Converse, che precede l'uscita dell'album Abissi di Lucciole, del quale però non vogliamo ancora rivelarvi nulla, se non il fatto che su questa radio avrete l'opportunità di ascoltare in anteprima il prossimo singolo. La data di uscita dell'album non ve la diciamo, vi diciamo un'altra data molto molto importante, che è quella del 1 ottobre. Parteciperemo live al Festival Skila Day a Fiumicino, organizzato da Rock in Lovers, dove i main artist sono i Meganoidi. Ci saranno tantissime band, tra cui le Shiz, quindi non perdetevelo. L'8 ottobre, e segnatevi questa data, le Shiz sono live al Wishlist per la serata di Kill Barbie, che si sa è la serata più figa della capitale. Avremo l'occasione di presentarvi tutto il nostro disco in anteprima, quindi per la prima volta potrete ascoltarlo per intero. Converse la trovate su tutte le piattaforme e noi ci trovate sui social come The Real Shiz. Ci vediamo sotto palco. Ho parcheggiato di merda, prenderò un'altra multa, faccio un sorriso largo al tipo che mi insulta, poi mi vede biondina con la faccia pulita e mi lascia passare con un cenno sornione. Nella prossima vita voglio nascere uomo solo per capire se si vive un po' meglio, se ti pagano il giusto, se ti fanno un contratto, ti concedono il mutuo, il divorzio, un affitto, se ti trovano un po' interessante quando dici che nella vita tu vuoi fare il cantante. Adesso chiedimi come essere me, camminare dentro le mie scarpe, che porto i tacchi ma di più le Converse. Quando ero bambina giocavo ad essere libera e volavo in giardino come Peter Pan. Poi arrivi a 30 anni senza figlio e marito, qualcosa non va ma tu non l'hai capito. Mentre tu a 40 anni sei single, sei figo, fai un match su Tinder, metti un bel vestito, magari svolti il weekend, paghi solo una cena nel caso esci con una che non ne vale la pena. E noi vogliamo tutto, ma tutto non si può. Adesso chiedimi come E queste sono le Shiz, che escono, stanno per uscire, anche se appunto, come avete sentito, ancora non abbiamo e non possiamo avere dettagli sull'uscita del prossimo disco, disco che sarà, insomma, da ascoltare questo, che è probabilmente il singolo principale, no? Diciamo il main theme di questo, insomma, di questo nuovo disco, una svolta abbastanza pop con questo brano molto carino, anche se noi ricordavamo che loro facevano musica un po' più elettronica, una scelta che ovviamente condividiamo perché ci piace, insomma, ma a noi ci piace tutto quanto quello che fanno gli artisti che ci propongono i brani, quindi siamo assolutamente contenti. Nel frattempo vi ricordo, intanto salutiamo Michela che ci fa vedere una bellissima recensione di Amazon, a quanto pare questi hanno comprato un piumino che c'ha soltanto il difetto che trattiene le scuregge praticamente, sono belle recensioni, devo dire che su Amazon il problema è quello che dicevamo, abbiamo sempre detto, perlomeno che ho sempre sostenuto io personalmente, che secondo me per internet oggi ci vuole la patente, cioè bisogna per accedere a determinati servizi, però purtroppo certi servizi non funzionerebbero se non ci fosse invece l'accesso totale, quindi dove anche le persone che scrivono queste bellissime recensioni alla fine comunque in qualche maniera debbono dire la loro. Detto questo, invece vi ricordo che giovedì sera alle ore 21 ci sarà Michela con Disordinati Informati. Si torna con la nuova stagione di Disordinati Informati, con la seconda stagione, e ci si sposta di sera, diciamo, perché appunto le mattine sono un po' complicate. Perché sono complicate? Perché c'è da lavorare, e soprattutto perché due giorni a settimana, che sono i due giorni a settimana liberi, diciamo, dalle live di Leo Varghion, noi abbiamo un impegno, ci siamo presi con una personal trainer perché è giusto, insomma, cercare di riprendere il contatto con il nostro fisico, il nostro corpo, con la nostra salute, e soprattutto perché abbiamo degli obiettivi che sono anche legati al fatto di fare bei viaggi, belle passeggiate, trekking, burroni e che ne so, in mezzo alla natura col cane, e diventare anche noi un cane, non lo so, qualsiasi cosa che sia, comunque è una scelta che abbiamo fatto e ci sta dando soddisfazione, non soltanto dal punto di vista dei risultati, ma anche perché poi tutto sommato l'avere l'obbligo di fare una cosa con una determinata persona ti impone comunque in qualche maniera anche di farlo, e quindi quando spezzi questa pigrizia, quando sei lì a faticare, alla fine tutto sommato non è neanche brutto. Comunque, dicevamo della regina, insomma, questa regina che adesso tutti quanti celebrano, tutti quanti amano, tutti quanti vogliono bene, e quando, insomma, ricordiamo che nonostante aver attraversato gran parte della storia del nostro continente, ma anche a livello mondiale, globale, insomma, aver attraversato guerre mondiali, crisi diplomatiche, la guerra fredda, crisi economiche anche per quanto riguarda il Regno Unito, Churchill, i conservatori, i laburisti, l'aver comunque cercato di mantenersi in quella posizione di equilibrio che dovrebbe essere ovviamente un sovrano costituzionale, quindi un sovrano che non dovrebbe influire sulla vita politica del proprio paese, ma che dovrebbe, insomma, fungere, diciamo, da equilibriatore, anche se poi, come abbiamo visto anche conoscendo la storia, insomma, a volte ha anche influito, compreso il discorso, insomma, della Brexit, dove si è comunque dimostrata favorevole, e questo comunque influenzando in qualche maniera anche quello che è stato il risultato di questo procedimento, che nonostante i loro tentativi di far finta di niente, comunque sappiamo anche per vie ufficiali e non ufficiali che insomma, la situazione non è poi così piacevole, così come vorrebbero dimostrarlo loro, o come vorrebbero appunto raccontarci, diciamo, da sto punto di vista, ma è una situazione abbastanza complicata che probabilmente si divanerà anche negli anni, e che ancora oggi non ha trovato una soluzione su tante problematiche che possono essere anche legate alla gestione dei confini, delle dogane e dei rapporti territoriali anche dal punto di vista marittimo, e quindi insomma ci saranno sicuramente ulteriori tensioni e scontri su questo, che è ovviamente un problema abbastanza sentito. In più però, come abbiamo letto quest'estate, diciamo che gli inglesi, in particolare comunque i rappresentanti scientifici del Regno Unito, si lamentano in quanto non vengono tenuti in considerazione per quanto riguarda ovviamente i progetti scientifici dell'Unione Europea, progetti scientifici ai quali loro sentono ancora di avere il diritto di dover partecipare, ed è sempre un po' la solita storia che c'è stata sempre, insomma, da quando l'Inghilterra, il Regno Unito ha provato ad approcciarsi con la nascente Unione Europea. Non so cosa sta succedendo, mi sto strozzando. E praticamente è stato questo rapporto un po' particolare, cioè questo rapporto del noi siamo l'impero e voi siete amici, ma noi siamo l'impero, quindi le cose le facciamo con voi, ma sempre come diciamo noi, perché noi siamo più belli e più fighi. E in realtà questa volta, insomma, il Regno Unito se l'è un po' presa, diciamo, in saccoccia, perché chiaramente l'Unione non ha accettato di permettere agli scienziati britannici ovviamente di partecipare alle stesse condizioni a progetti che hanno comunque anche un riscontro economico, no? Dal punto di vista del finanziamento dei progetti stessi. E quindi la regina è morta, e adesso so 15 giorni che so 2 settimane che ne stiamo parlando, insomma, neanche rispettando il fatto che è fatta a riposare sta povera crista. E molti dicono: poverina, insomma, ha fatto la storia e via dicendo, quando insomma a volte mi viene anche un po' da di, cioè sì, poverina, ma anche sti cazzi, eh. E questi sono The Smiths, i Smitty, noi li chiameremo gli Smitty, con The Queen is Dead, che giustamente, insomma, ci sentivamo di dedicare questa canzone, che dura 6 minuti e passa, quindi adesso io sono buccato dentro la canzone, altrimenti sarebbe durata un po' troppo, diciamo così. Salutiamo anche Deborah e Walter che ci raggiungono in diretta sulla nostra chat runtime, dirette runtime su telegram.me, appunto, allora telegram.me/dirette runtime, scusate, è mattina pure per me. E ci ricorda Walter che loro ieri sera hanno dimostrato che in realtà è tutta una beffa, perché l'hanno chiamata in diretta. Voi sapete che noi con OGM facevamo questi collegamenti con la regina, abbiamo il numero telefonico, l'abbiamo chiamata, e anche ieri sera, insomma, hanno dimostrato che era vera. Io ero rimasto che avevano provato a chiamarla ma non rispondeva, e invece evidentemente poi dopo ha risposto. E vi ricordo ancora che giovedì sera alle ore 21 Michela con Disordinati Informati, insomma, torna anche lei con le sue notizie un po' più serie, un po' più assortite, dove insomma ci racconterà, ci approfondirà, insomma, quello che succede nell'arco della settimana, in questo caso, forse in questo lasso di tempo. E invece io, insomma, ogni tanto su YouTube, anche se questa è una cosa che è successa molto molto tempo fa, su YouTube sapete che ogni tanto, saltuariamente, a seconda del tipo di ricerche che tu fai e via dicendo, mi ha suggerito una cosa. Ma prima di dirvi che cosa mi ha suggerito, se io vi dico socca, a voi che vi viene in mente? Socca, a voi vi può venire in mente, tipo, che ne so, soccazzi, tipo un diminutivo dei soccazzi. No, invece no, socca è una cosa un po' particolare, perché voi sapete, io sono appassionato di calcio, ma anche di versioni alternative del calcio, cioè nel senso di qualcosa che è anche al di fuori del campionato, dei campionati ufficiali che noi conosciamo, insomma, quindi di quel mondo che ci, insomma, le persone come me rimangono ancora abbastanza incollate, ma che alla fine senti un po' l'esigenza di andare a cercare anche qualcosa, insomma, che ti diverta ugualmente, ma che allo stesso tempo non, diciamo, sia un po' fuori da certe dinamiche economiche, dei miliardi, insomma, dei fondi di investimento e via dicendo. E quindi una volta, alla fine, YouTube mi ha suggerito questo video dove c'era la denominazione della Socca Federation. Socca, proprio scritto così, Socca, che ovviamente fa gioco sul termine soccer, quindi calcio, fondamentalmente, secondo quello che dicono, il termine che utilizzano gli americani. E questa Socca Federation, alla fine, che cos'è? È una sorta di federazione internazionale a livello mondiale, organizzata, insomma, da pochi anni, meno di un decennio, penso. E proposta da alcuni tizi, ovviamente uomini d'affari, insomma, arabi, americani, europei, che hanno costruito praticamente questa realtà, hanno invitato una cinquantina, una sessantina di nazioni, diciamo, ad aderire a questa federazione, e sono nati dei tornei internazionali di questo che è, diciamo, una via di mezzo, diciamo, tra il calcio, il calcetto, il calciotto, che, insomma, voi sapete che c'è il calcetto, fondamentalmente quello che si chiama futsal, che sono 5 contro 5. Il soccer mi pare che sono 5 a side, quindi sono 5, sono 6 per parte. E poi, vabbè, ci sono gli altri sport, tipo il calcio a 7, il calcio a 8, e poi ovviamente c'è il calcio a 12, a 11, scusate. E alla fine, insomma, questa cosa del soccer, che sembrava un po' una stupidaggine, invece è una cosa organizzatissima, e questi sono già al secondo, se non terzo mondiale che organizzano, e uno è in fase di organizzazione, cioè in fase di esecuzione proprio in questo periodo qui, e c'hanno un canale YouTube dove loro fanno la live giornaliera che dura 12 ore e dove ovviamente sono tutte le partite di questo campionato del mondo. Ma la cosa figa qual è? Che questi, a secondo di dove si va a organizzare questo campionato del mondo, prendono praticamente, hanno una sorta di struttura costruibile, diciamo così, un prefabbricato che è uno stadio con tanto di tabellone, col monitor tutto gigante fatto bene, che conterrà un 2-3 mila persone, e questo, praticamente tutta questa struttura loro la portano nel posto dove si decide di fare il campionato del mondo, costruiscono questo stadio, questo mini stadio, diciamo così, e dentro ci fanno questo torneo, ed è veramente una cosa figa, perché ti riporta, sì, c'è un'organizzazione, dietro ci sono dei soldi sicuramente, però ti riporta, insomma, diciamo, a uno spirito un po' diverso, no? Rispetto a quello che a questa esasperazione anche agonistica che vediamo noi nel nostro mondo, nel calcio, insomma, che conosciamo. Ed è comunque divertente da vedere, perché ovviamente sono delle nazioni improponibili, che non parteciperanno mai a un campionato del mondo reale, no? Però questo è un punto di partenza anche dal punto di vista della democraticizzazione dello sport, cioè non ci sono delle qualificazioni ai mondiali, partecipano più o meno tutti quelli che si possono permettere di partecipare, e fanno infatti sta fracca di partite, saranno centinaia di partite nell'arco di un X mese magari, dove praticamente più o meno si scontrano tutti a gironi, e poi ovviamente sono le varie selezioni e si va avanti. E stavo seguendo anche le partite dell'Italia, io tra l'altro, che era partita bene. Adesso sono 2-3 giorni che non controllo il tabellone. Era partita bene perché aveva vinto tipo 3 partite su 3, aveva battuto la Francia, insomma, quindi sai cos'è. Però in generale ci sono squadre tipo Algeria, Oman, cose che, insomma, di solito tu non vedi, no? E se tu pensi che in questa settimana, no, calcistica, è successo un po' di tutto, in particolare dopo Milan-Napoli, no? Cioè, nel senso, un campionato di calcio dove praticamente il Napoli ha battuto il Milan, e il Milan, in quanto società attenta a tutte le problematiche razziali, vi ricordo che il Milan c'ha questo comportamento che da una parte è giusto, da una parte è anche un po' infame, di denunciare tutti gli atteggiamenti delle tifoserie opposte che sono sfuggite alla Procura federale. E praticamente che è successo? Che da domenica sera che c'è stata questa partita Milan-Napoli bellissima, non c'è un video su YouTube dove non ci sono milanisti che dicono delle cose aberranti contro i napoletani, ma anche in diretta televisiva, no? C'è persone col microfono che intervistavano e questi: noi non siamo napoletani, Napoli merda, lavali col Vesuvio, via dicendo. Adesso io vorrei vedere, no? C'è la procura, no? Che è sempre stata molto attenta alle denunce del Milan, come si comporterà. Ecco, diciamo che tutto questo in soccer non succede. Eppure c'è la gente che va a vedere questi eventi, queste manifestazioni. È bello, cioè, per esempio, se facessero il mondiale soccer in Italia, io ci andrei a vedere le partite. Anche se chiaramente stiamo parlando di un livello tecnico, insomma, che non è quello, insomma, dei professionisti del futsal o del calcio, chiaramente. Però è una cosa divertente, tutto sommato. David Guetta con I'm Good. Questa, insomma, è una messa perché mi ricorda i mondiali, sta canzone mi ricorda i campionati del mondo di calcio, quando tu guardavi i campionati del mondo di calcio da ragazzino, da ragazzetto, lo guardavi con un altro spirito, che se vi ricordate d'estate quando c'erano i mondiali c'era sempre quell'atmosfera, ah, c'erano i mondiali, che bello, no? E mo noi i mondiali, vabbè, a parte che non ne parliamo, ne parleremo durante questa stagione, di questa cosa dei mondiali d'inverno e tutto quanto. Mentre che Deborah ci ricorda che l'Italia è campione del mondo di subbuteo. Beh, ma ragazzi, il subbuteo, nonostante essere un gioco inventato dagli inglesi, e ancora una volta ritorniamo su questa cosa, poveri inglesi, diciamoglielo. Nonostante questo, insomma, in Italia il subbuteo ci ha avuto una grandissima, importantissima tradizione, chiaramente. E, non a caso, come ho raccontato anche su Quando eravamo futuro, anche io, insomma, gli davo giù dei subbuteo, anche se io lo facevo da un punto di vista più strettamente collezionistico, diciamo così. E, cioè, mi piaceva collezionare le squadre, avevo fatto lo stadio con tutti quanti i pupazzetti, cioè gli spettatori, che mi ricordo che tu li compravi in bustine da 10 se erano già colorati e bustine da 50 se erano tutti da colorare, quindi mi mettavo lì con mia zia, con i pennarelli quelli ovviamente con la punta microscopica, insomma quelli da colorare le miniature, e i famosi pennarelli da colorare le miniature, si chiamano proprio così, cioè sul vocabolario è così che si chiamano, e facevo questa cosa, e mi ricordo che addirittura con mia zia e mia madre, sullo stadio che io ho fatto, che era lo stadio in inglese che circondava ovviamente il campo, quindi lo faceva diventare una cosa da collezionismo, perché dopo diventava un po' complicato da giocarci, mettevamo anche gli striscioni pubblicitari, mi ricordo Mars, Canon, non so, vi ricordate che quando eravamo ragazzini noi c'era Fujifilm, c'erano tutti questi marchi, no, sui tabelloni pubblicitari dello stadio. Oggi è molto più variegato, vabbè, che oggi comunque non esiste più il tabellone pubblicitario, il cartellone come una volta, oggi sono tutti LED, quindi poi alla fine comunque è tutto molto animato, insomma, da questo punto di vista. E invece una cosa che ho notato io, insomma, una cosa che voi sapete, io ultimamente, e qui c'è un po' un buongiorno un cazzo, diciamo, in questa trasmissione un po' soft, un po' light che sto facendo questa mattina, sapete che, insomma, poi alla fine un po' un buongiorno un cazzo ce lo devo mettere, perché ho scoperto che una cosa, intanto Scozia mi si è parcheggiata sotto, non so se dalla regia qualcuno vuole accudire il cane, tipo non so se vuole uscire, non so cosa vuole fare, e c'è ho scoperto una cosa che un po' la capisco, un po' non la capisco, diciamo, non la voglio giudicare in quanto cosa in sé, giudico, diciamo, secondo me il modo in cui viene un po' gestita questa cosa, che è la moda, diciamo, o, insomma, la tendenza che ho scoperto non essere così rara, anche se non in Italia, perché credo che sia illegale, ma in America e in tanti altri paesi, di adottare le scimmiette neonate, cioè nel senso le scimmie, le baby scimmie, insomma i cuccioli di scimmia fondamentalmente, che è una cosa un po' particolare, no? Nel senso che dicono dalla regia, stanno catturando il cane. Questa cosa delle scimmiette è un po', cioè dice vabbè, tu hai, come posso dire, adottato un animale, caruccio, l'animale te ne prendi cura, è anche un bel pensiero, no? Tutto sommato, se ci pensate. E invece alla fine secondo me è un po' l'esasperazione, l'esagerazione che si fa quando tu adotti questi animaletti, un po' come quelli che adottano il porcellino e si comportano come se fosse il cagnolino fondamentalmente, no? Cosa che non può essere, no? Cioè nel senso, è chiaro che ogni animale ha la sua configurazione comportamentale, cioè i suoi bisogni, cioè le sue necessità, cioè il suo diverso tipo di rapporto contro la costrizione, perché bah, comunque, cioè nel senso, noi gli animali li amiamo, li teniamo con noi, però non tutti gli animali sono addomesticabili nella stessa maniera, hanno lo stesso tipo di rapporto con noi. Ma in particolare vanno colpito due canali che non citerò perché adesso non me li sono segnati, ma insomma se andate su YouTube ne trovate a, insomma, diversi. Due canali, uno praticamente entrambi secondo me si comportano nella stessa maniera, uno è una ragazza e uno è un omaccione, un gigantesco uomo di colore che tu ti aspetti che vada in giro a menare la gente, invece sta lì e fa il bagnetto alla scimmietta. Che ecco, allora, diciamo, uno racconta la routine quotidiana della scimmietta che viene fatta dormire dentro una scatola coperta da una coperta, così al buio questo dorme e non va in giro e non fa disastri quando tu dormi, no? Perché poi fondamentalmente non è che la scimmia gli puoi dire no, questo non lo fare, quello non lo fare, a meno che, non so se esistano degli addestramenti specifici per le scimmie. E quindi praticamente c'è questa tipa che tira su sta coperta e prende subito in braccio sta scimmietta che subito gli si attacca al braccio, no? Magari perché si è creato un legame, magari perché è spaventata, magari per tante cose. E questa scimmietta che sta col pannolino, chiaramente, pannolino col buco per la coda poi. Quindi la prima cosa che fa questa qui è pulirla, lavarla, cambiargli il pannolino, pulirgli il sedere e rimettergli il nuovo pannolino e via dicendo. Tra l'altro tutto questo in cucina, faccio presente. Puoi scaldare il latte al microonde, dagli il latte, metti il biberon del latte dalla scimmia dentro al frigo un'altra volta, io non lo so, cioè per carità. E fagli il bagnetto, fagli le cose, insomma, e trattarli un po' come se fossero dei neonati, dei bebè, dei cuccioli d'uomo, diciamo così, cosa che non sono, per quanto se lo sembrino, perché a volte lo stavo guardando proprio pure con Michela, sono piccoli, quando sono veramente piccoli e spelacchiati sembrano veramente dei, cioè si vede che sono delle scimmie, non voglio essere frainteso, però fanno un po' impressione, cioè nel senso, da quel punto di vista, però si vede che sono delle scimmie, e tu comunque stai trasferendo, diciamo, un comportamento che dovresti dedicare come tipo d'attenzione magari a un tuo simile, a una scimmietta, che di per sé ci può anche stare, nel senso che non è che questo ti condanna in qualche maniera a essere una brutta persona o a essere chissà che cosa, però bisogna capire se quello che tu fai nei confronti della scimmietta, comportandoti come se fosse un bambino, è un comportamento adatto per la scimmietta. Questa è una cosa un po' da tenere in considerazione. E in più, ovviamente, esplorando un po' questa cosa, dobbiamo anche considerare che ho scoperto che questo tipo di scimmie che vengono adottate a volte, quindi questa potrebbe essere un po' la parte positiva della cosa, vengono adottate perché questo tipo di scimmie fra di loro sono cattive, cioè tipo nei confronti del cibo sono capaci di attaccarsi fra fratelli, ma anche mamme con i figli. Infatti ho visto un video che non avrei voluto vederlo, io di solito non vedo le cose, però c'è proprio un video dove sta mamma soffoca sto ragazzino, cioè sta scimmietta, ci si siede sopra fino a che lui non smette di muoversi, è una cosa terribile. Quindi ecco, se c'è un aspetto positivo di questa cosa è il fatto che magari queste persone, scusate un attimo, Ok, queste persone comunque in qualche maniera magari intervengono in queste situazioni più particolari, perché magari questi animali in cattività cambiano il loro comportamento o hanno dei problemi da quel punto di vista, però dall'altra parte insomma è abbastanza sconcertante il fatto che tu trasponi, diciamo, il tuo senso materno verso una scimmietta, insomma, quando in realtà il tuo rapporto dovrebbe essere più sì affettuoso, ma anche scientifico, cioè nel senso tu dovresti comunque cercare di comportarti con l'animale così come l'animale ha bisogno che tu ti comporti, cioè non è un essere umano, è un'altra creatura che risponde a regole sociali diverse e quindi ha bisogno di un comportamento diverso da questo punto di vista. Insomma, non so cosa ne pensate, ecco, magari scrivetelo in chat che potrebbe essere interessante. Monkey Man, giustamente, per rimanere insomma un po' sul tema Rolling Stones, questa è la versione rimasterizzata ovviamente del brano, altrimenti c'è la versione originale che era mono addirittura, pensate, cioè la versione mono di questo brano. C'è Deborah che ci dice che la mamma ha vissuto in Africa per ovviamente diverso tempo, ora non sappiamo il perché e il per come, ma non ci importa, e avevano adottato una scimmietta e la trattavano giustamente da scimmietta. La nonna, che invece era magari un po' più apprensiva, magari la curava di più, diciamo così, e questa scimmietta di risposta l'ha morsa andando all'ospedale. Tra l'altro questa parte della storia mi ha lasciato un po' così, cioè nel senso, cioè povera nonna, nel senso, però ecco, questa cosa l'ho saputo, sai che poi alla fine queste scimmie quando ti mordono non sono tanto benevole, insomma fanno abbastanza male, ma abbiamo visto insomma che sono degli animali abbastanza particolari le scimmie, devo dire, molto molto, non dico di per sé aggressive, però sicuramente non hanno il controllo da quel punto di vista. Insomma, abbiamo visto incidenti anche qui, se cercate su YouTube ci sono incidenti legati al rapporto tra uomini e scimmie abbastanza particolari, a volte alcuni veramente brutti. E comunque, a parte questo, invece vi sarà sicuramente capitato, ragazzi, su YouTube, TikTok o quant'altro, insomma, ma anche Instagram, Facebook, roba del genere, vedete tutti quei fantastici video. Allora, alcuni, diciamo che anche fatti con un minimo di cura, alcuni proprio pecioni la cifra, di tutti sti tizi che ti dicono che tu sei un coglione perché lavori 10 ore al giorno per 1000 euro al mese, invece loro lavorano 45 minuti al giorno e guadagnano 20.000 euro al mese, quindi tu sei un coglione perché loro hanno trovato la strada del successo, che tutti possono fare successo e che se segui il loro metodo tu farai successo. E il loro metodo qual è? Il loro metodo è venderti il corso per spiegarti come fare successo, quindi praticamente, se ci pensate, è anche geniale sta cosa, no? Cioè nel senso, io come guadagno i soldi? Guadagno dei soldi spiegandoti come guadagno dei soldi, cioè, quindi, e non ti dirò mai che guadagno dei soldi sul corso che tu compri, ma inventerò qualsiasi altra stronzata. Io non ho visti tanti, io non ho mai ovviamente acquistato nessuno di questi corsi, uno perché non mi interessa proprio il tema, cioè nel senso, non che non mi interessi avere soldi o via dicendo, ma proprio non... Io mi reputo abbastanza intelligente da pensare che se una persona ha un metodo, non va a saturare quel metodo, perché saturando quel metodo chiaramente c'è meno possibilità per tutti, no? Cioè nel senso, io mi ricordo quando ero ragazzino io c'era Amway, che era questa azienda americana che basava il sistema di vendita sul multilevel marketing, quindi praticamente su venditori che creavano altri su compratori che creavano altri compratori, e a scalare praticamente tu aumentavi il tuo livello fino ad arrivare a determinati tipi di stipendi. Ma se questi meccanismi fossero veramente così universali, e non lo è perché non esiste una tecnica universale per la vendita, per il successo, ma è anche molto diverso da quelle che sono le nostre caratteristiche, le nostre specifiche capacità. Se veramente fosse così, il sistema o quel sistema o altri sistemi arriverebbero rapidamente a saturazione, no? Cioè dove tutti raggiungerebbero un certo tipo di risultato, e a quel punto non ci sarebbe più spazio per tutti, no? Questo è o perlomeno non ci sarebbero più gli stessi introiti per tutti. Questo è abbastanza chiaro. Poi mettiamoci anche il fatto che molti prendono un finestrone col mare di dietro, non si vede niente, dice: vedete, io lavoro dalle Figi, lavoro dalle Seychelles, magari è Ostia, no? Cioè, nel senso. Oppure quelli che noleggiano la macchina, o neanche la noleggiano, magari chiedono a qualcuno di poter entrare dentro un macchinone da fermi, perché non c'è che lo fanno col motore acceso, oppure che vanno in giro con queste macchine. Ragazzi, fino all'altro ieri io avevo la Panda, adesso vedete con cosa vado in giro, no? Ed è tutta questa costruzione. A parte, vedo proprio una generazione cresciuta proprio con sta brama di dover ottenere le cose, no? Che è un po' l'effetto iPhone, no? Cioè, nel senso, adesso tutti vogliono qualcosa, tutti devono dimostrare che c'hanno i soldi. Poi non gliene frega un cazzo dell'oggetto in sé, perché io immagino che tutti coloro che oggi magari si indebitano e comprano un iPhone utilizzano il 10% di quello che magari un sistema come l'iPhone possa fare, ma iPhone, Galaxy, Samsung, insomma, no? Perché? Perché è l'oggetto la cosa importante. E questa è un po', ovviamente è un po' una banalizzazione di questo tipo di discorso, però è comunque un blocco, una realtà che si è abbastanza consolidata. E oggi ne vedete a bizzeffe, aprite YouTube, c'è sempre il video sponsorizzato del tizio: io lavoro solo 15 minuti al giorno e guadagno 20.000 euro, ma anche tu puoi farlo. Puoi venire qui con me alle Seychelles a lavorare e dedicare il tempo a te stesso e al tuo fisico, e poi dopo lavorare solo il giusto che basta per fare 20k 30k, perché mo poi c'è stato pure questo gergo, no? Però adesso siamo arrivati a uno step superiore. Ve lo ricordate 17-27 World Star, no? Il trapper, e tra l'altro io, ragazzi, non ho mai trovato una canzone di questo, cioè nel senso, dice, il trapper era trapper e poi dopo è diventato famoso, fratelli, perché è diventato un influencer. Questa gente qui è una sorta di disevoluzione, evoluzione del tizio con il mare di dietro, con il profilo della macchina sportiva che ti dice: vedi, però questi lo fanno nella maniera tamarra, cioè quella proprio da trapper, no? Cioè adesso brasiliano, 17-27 World Star, tutta sta gente, e sono diventati i nuovi messia del denaro. Sono quelli che ti dicono che c'è un metodo infallibile, incredibile, ragazzi, e vanno in giro con sti mazzi grossi dei soldi, che secondo me poi tutti lo scrivono, sono finti quei soldi, no? E che loro sono in casa, sono fette di qua, te spacco il culo, capito? Faccio da pro. Io c'ho la macchina, ogni giorno ne compro una macchina nuova. Cioè, volendo, no? Se io volessi investire in un'immagine, insomma, io e Michele andiamo a un autonoleggio, versiamo una caparra, paghiamo con la carta di credito, pure io ci posso avere la Porsche per 2 o 3 giorni, eh? Cioè, non è che è una cosa così sconvolgente, no? E qui si vanno in giro con questi mazzoni di soldi, che secondo me poi tra l'altro è anche mezzo illegale come tipo di cosa, no? E poi li buttano sti soldi, perché devono far vedere a fra un cazzo, io ho gli occhiali da Gucci, guarda c'è un Rolex, è finto, ma che dici che è finto, a stronzo, ti apro il culo. E questa gente praticamente invita altra gente a partecipare ovviamente ai loro meeting, perché c'è il nuovo business, e siccome che la maggior parte di sti coglioni sono seguiti dai ragazzini, perché poi oggettivamente questi non sono più quelli che vendono il corso per farti fare i soldi. Questa è gente che proprio bypassa completamente il passaggio, no? Cioè, nel senso, è quelli che vanno direttamente a il soggetto nel quale loro hanno influenza, ossia ragazzino. Ragazzino anche 17-18 anni, no? Che comunque magari ha quei due spicci, gli azzottano sti spicci, li mettono dentro un meccanismo, gli fanno fare i video, dite che hai fatto i soldi, sì, ho fatto i soldi, dai, con 17-27. E poi magari dopo due giorni tornano dai genitori perché non c'hanno più manco le mutande. Mo, chiaro, io sto a fare delle affermazioni che possono essere anche, come posso dire, discutibili, no? Lo faccio perché tanto qua non ci ascolta nessuno. Però oggettivamente, no? Cioè, un balordo che la metà dei video spacca le cose per terra e fa vedere che si sgara da solo per far vedere quanto è macio, e nell'altra metà dei video dice c'ha un metodo business per fare i soldi e fa vedere i pacconi dei soldi, cioè qualcosa mi stona, no? Cioè, nel senso, mo, non voglio dire. E niente, questo volevo dire, cioè non dico fate attenzione, lo sapete, però è quello che mi fa specie, capito, che c'è l'evoluzione. Prima il tizio tutto bello in giacca e cravatta che dice non vi pensate quanto è stupido buttare la vostra vita, adesso invece c'è questi qua, fratelli, via qua, c'è bisogno su che adesso fammi i cosi, poi dopo che vengo sotto casa e ti spacco il culo. Cioè, fanno anche un po' di confusione, no? Col mix, insomma, col messaggio, diciamo. Oh, fratelli, ho fatto un tiro, fratelli, ho preso il muro, fratelli, che cazzo me ne, fratelli, vado in giro, fratelli, faccio un casino, fratelli, la polizia, fratelli, mi fa una sega, fratelli, oh, fratelli. Terza marcia, pigionos, se fai bocca faccio box, fra lo sai che sono boss, due scafi, uno ghost. Ti salto addosso, voi se con la mia bici provi, com'è un cazzo di troia quando sei pieno di soldi. Boom, boom, boom, movimenti serie afra come Totti e Maldini. Non ho pallone, ho pallini, ho fatto mani, fratelli. Sto sulla base, fratelli, con 17 fratelli e 27 fratelli. Ho fatto i soldi, fratelli, fratelli. Lei mi succhia solo il dick, contante come Ricci Ricci. Ho fatto i soldi, fratelli, fratelli. Cazzo grande nei miei jeans, succhia forte mentre sto bevendo gin. Shit, ho preso il muro, fratelli, la scopo forte anche se non è una beef, fratelli. Tutto a posto, fratelli, fratelli. Tutto a posto, fratelli, fratelli. Cazzo duro nei miei jeans. Ecco, allora non ho trovato altro. Ho trovato questa cosa, che è l'unica cosa che si può trovare su Spotify, che è comunque collegata a 1727 World Star, del quale noi abbiamo parlato tantissime volte durante la scorsa stagione, perché ovviamente è un personaggio assurdo, no? Cioè, se tu vai a vedere la sua parte più social, è veramente un personaggio assurdo. Ma questo mitismo del cazzo durismo, che lo dice proprio la canzone stessa alla fine, no? Che non so solo muscoloso e col cazzo duro, ma sono anche impaccato di soldi, ma cioè poi fa impressione che fanno sta cosa pronto, capito? Prendendo il mazzo dei soldi grosso come la mano e usandolo come telefono. Francesco giustamente ci dice che ci sono anche quelli che fanno il video da panda perché non vogliono dimostrare, non vogliono ostentare perché sono più onesti degli altri, no? Sì, è vero, hai ragione, mi ero un po' dimenticato di questo aspetto, però insomma, vabbè, cioè io te devo dire la verità, mo non bisogna avere pregiudizi, non bisogna avere un comportamento elitario, settario, diciamo così, però a me, se mi arriva il brasiliano con tutto il collo e la faccia tatuata, che tu fino all'altro giorno l'hai visto, spacco il culo, lavoro il culo, mi hanno tirato la bottiglia, io l'ho spaccato, l'ho aperto in due, roba del genere, e mi viene a dire che c'ha business per fare i soldi, io a 50 anni, chiaramente, tra l'altro voglio dire anche una cosa che non c'entra niente, ma mo è venuto in mente, no? gliel'ho detto a Michela ieri, a me mi dispiace tantissimo, è veramente, perché proprio come persona, proprio come sensibilità, mi dispiace tantissimo trattare male le persone che te cercano di buccare dentro casa con la scusa più stupida. Perché una volta veniva il venditore, tu era il venditore, lo sapevi, l'accettavi o non l'accettavi. Mo girano sti ragazzetti tutti vestiti bene, no? Che è venuto la bolletta, il coso della la comunicazione dell'Enel che le dice che perché dobbiamo verificare. Amore mio, tu non devi verificare un cazzo, tu mi devi rompere i coglioni facendo tutta sta manfrina fino a che non ti tiro fuori la fattura dell'ultima bolletta e fino a che tu non mi fai l'offerta. Ma a me non me ne frega un cazzo, perché se io devo cercare un'altra offerta me la vado a cercare da solo, no? E quando questo arriva, allora è arrivata la comunicazione, hanno messo il nuovo contatore, guarda, a me non mi hanno messo, come no, guardi, qual è il suo, il primo? No, no, non è il primo, è il mio, quindi... Perché dici che no, no, ma guardi che gli hanno messo, dice, la comunicazione, perché io adesso devo fare una verifica. E mentre che diceva, io gli ho detto buon lavoro, gli ho sbattuto la porta in faccia. E questo ci è rimasto anche male, o perlomeno è addestrato a rimanerci male, io non lo so bene. Però è una cosa che veramente non lo so, regà, cioè mi dispiace, perché poi alla fine mi dispiace, cioè questo tipo di comportarmi in questa maniera, però non gliela si può fare perché non, ogni volta devono trovare sempre un metodo per infilarsi dentro casa tua, cioè che è una cosa fastidiosa. Mo a me non frega niente, io addirittura non rispondo mai al telefono, perché sennò no, sai, telefoniamo per un sondaggio e poi dopo te rompono i coglioni, poi dopo sei insistenti, diventano anche maleducati, cioè la cosa assurda è che alla fine diventano i stalker, cioè diventano dei, insomma, vabbè. Però dentro casa non mi devi imbucare, quindi cioè, nel senso, io sta cosa purtroppo sono costretto a essere un po' maleducato da quel punto di vista, mi dispiace, però è così, raga, fratelli, è così. Va bene ragazzi, grazie per esserci stati, grazie per avermi fatto compagnia in questo primissimo episodio di Buongiorno un cazzo. Come vedete non c'ho più la voce abituata, mi devo portare dell'acqua quando faccio dell'acqua e miele, ma non lo posso assumere il miele in quanto purtroppo stiamo facendo questo periodo di cui giovedì sera vi racconteremo magari meglio, Michela ve lo racconterà meglio, questa dieta importante che stiamo facendo col personal trainer che ci sta spaccando le chiappe, ma lo stiamo facendo per la salute e non per la questione estetica, ma per tornare a vivere bene, meglio con il nostro corpo e sentirsi a nostro agio nei confronti anche degli altri. Detto questo, io vi ringrazio, vi auguro una buona giornata, un cazzo a tutti quanti e statevi bene, un bacio ai pupi.